We'll be right back.

voi terrestri possedete e coltivate grandi valori. La speranza, l'amore, l'amicizia, la solidarietà, la fratellanza. Voi avete cuori capaci di riconoscere la giustizia e spiriti che anelano incessantemente alla libertà. Se tutto questo verrà sublimato in energia positiva, se riuscirai a farne uno scudo, allora forse la Terra acquisterà la forza necessaria per contrastare e vincere l'energia negativa.